Un salutone a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di Uru, la trasmissione di Radio Wombat che parla appunto di suoni, musica e notizie dal continente africano e appunto siamo alla 47ª trasmissione. Trasmissione, volevo ricordarvi prima di cominciare che potete ascoltarci su wombat.noblogs.org streaming. Ma attenzione, siamo anche sulle onde medie, quindi 1359 AM 1359. Mi raccomando, fateci sentire da dove ci sentite, come ci sentite e scriveteci apposta a wombat@insiberia.net. Vi ricordo anche che Uru adesso sta andando in diretta il venerdì alle 21:30, alle repliche se volete riascoltarla o ne per sapete già che non potete ascoltarla tutta, sono la domenica alle 23, il lunedì alle 8:30 del mattino. Seguite anche la radio su Twitter, Radio Wombat Firenze. Uru ha il proprio profilo Twitter, quindi Uru-RW di Radio Wombat. Ricordiamo anche che potete ascoltare le trasmissioni di Uru, ma anche di tutte le trasmissioni, tutte le altre rubriche di Radio Wombat andando alla sezione podcast, appunto sempre sul sito wombat.noblogs.org, sono elencate in ordine alfabetico tutte le trasmissioni, quindi anche Uru, quindi la potete riascoltare oppure la potete scaricare e riascoltare successivamente. Stasera una puntata un po' particolare dedicata dal punto di vista dei suoni a quella miriade, quelle isolette, perché da un punto di vista dell'estensione sono piccole, che si trovano al largo della costa africana, nell'oceano indiano, ma che da un punto di vista politico, da un punto di vista geografico, soprattutto da un punto di vista culturale e quindi da un punto di vista musicale, appartengono appunto, sono all'interno del continente africano. E appunto una popolazioni che sono frutto, un melting pot frutto appunto di migrazione continua, essendo appunto isole in cui si sono succeduti e cui si sono stabiliti non solo abitanti provenienti dall'Africa ma anche dall'India e comunque da tutte gli stati, da tutte le regioni che si affacciano sull'Oceano Indiano, e questo melting pot etnico si riflette anche sulla cultura e quindi anche sui suoni, sulla musica. E vogliamo iniziare con le isole, la Repubblica di Mauritius, tra l'altro anche perché in questa settimana accade l'anniversario dell'indipendenza, un'indipendenza ottenuta relativamente recentemente, nel 1968. E appunto la Repubblica Mauritius è un paese insulare dell'Africa, si trova appunto, come detto precedentemente, nell'Oceano Indiano sud-occidentale a 550 km ad est del Madagascar, e oltre all'isola principale omonima ci sono anche alcune altre isole, Agalega, Cargados, Caracos e soprattutto Rodriguez, che ha uno statuto da un punto di vista legislativo, da un punto di vista politico molto particolare, nel senso che è proprio una regione, seppur all'interno della nazione delle Mauritius, una regione autonoma, anche perché, e che tra l'altro richiede l'indipendenza, anche perché abitata da una popolazione diversa da quella del resto delle Mauritius e quindi anche un tipo di musica diverso da quello di Mauritius. E ricordiamo anche che tutte queste isole, Mauritius ma anche e le sue isole che la circondano, comunque fanno parte dello stesso Stato, ma anche il territorio francese ottomano di Réunion, di cui tra l'altro ci sentiremo dei pezzi musicali anche di quest'isola, fanno parte delle isole mascarene, che sono una sorta di striscia, ecco, diciamo così, che inizia a 200 km dal Madagascar e appunto finisce a 550 km. Si chiamano mascarene perché il primo a scoprirle da un punto di vista, diciamo, dei grandi viaggiatori, le scoperte da un punto di vista da un punto di vista storico, per quanto riguarda una storia eurocentrica, era stato il navigatore portoghese Mascarenhas. E Mauritius ha la particolarità di non avere una lingua ufficiale. Negli atti parlamentari viene parlato l'inglese, da cui appunto uscì come territorio appunto nel 1968, ma quella maggiormente parlata è il creolo, anche in questo caso, e in questo caso appunto il creolo mauriziano, in cui una sorta di melting pot linguistico, in questo caso con influssi inglesi, francesi, dell'Africa del Sud e indiani. E nello stesso momento non c'è neppure una religione di Stato, mentre invece c'è una sorta di musica di Stato, la Sega, che è uno dei principali generi di quelle nato a Mauritius, ma che successivamente si è irradiato nelle altre isole, e da cui appunto deriva un altro sottogenere, si intitola Segge, che è una fusion, diciamo, una fusione tra la sega originale e il reggae. E la particolarità è che questo genere musicale, questa sega, ha origini nella musica degli schiavi sull'isola e di solito è cantato in creolo. E la musica e le danze differiscono, anche se la musica e le danze differiscono, è cantata anche nelle rispettive lingue creole nelle altre isole, nelle vicinanze. In passato la musica sega era fatta solo con strumenti tradizionali, come il ravanè e il triangolo, ed è stata, è iniziata proprio come per protestare contro le ingiustizie della società mauriziana. E appunto viene chiamata Santé Engagé, questo tipo di musica progenitrice dell'attuale Sega. La sua evoluzione, appunto, l'attuale Sega, molti affermano che un'evoluzione è avvenuta già successivamente ai primi tempi della schiavitù, però non è dato di sapere, anche perché appunto è un'evoluzione, quindi conseguentemente non c'è un atto di nascita ben preciso. E viene cantata dagli abitanti del Mauritius, una sorta di espressione, di autoespressione. Altre forme di musica del Mauritius includono canzoni bujipuri, che appunto il nome stesso indica una provenienza indiana, ecco, dal punto di vista dei suoni, dal punto di vista dei timbri musicali, caval, ma sono tutte musiche popolari e che risalgono all'epoca dei lavori a contratto, diciamo, quelli successivi alla schiavitù. Ci sentiamo un pezzo di Sega, appunto, di Denise Azor, che si intitola Ala Lila. Sversamento di greggio in Nigeria. Accusate Daniel Shell di gravi negligenze. Non è la prima volta che da questa trasmissione appunto riportiamo le denunce fatte sia dalle popolazioni locali sia dagli organismi o le organizzazioni non governative internazionali delle malefatte della italiana Eni e della multinazionale Shell, due multinazionali delle giganti petroliferi che appunto no, inquinano nell'ipotesi migliore interi paesi, intere zone della Nigeria. E in questo caso addirittura Amnesty International è tornata a accusare i giganti petroliferi Shell ed Eni di gravi negligenze nel trattare gli sversamenti di greggio in Nigeria, in quanto le società impiegano settimane a rispondere alle segnalazioni di sversamenti e pubblicano informazioni fuorvianti sulle cause e sulla gravità degli stessi che possono portare a mancate compensazioni per le comunità locali. Questo è virgolettato, ripreso da un comunicato di Amnesty International. Quindi non si tratta soltanto di uno sversamento, e qui per sversamento intendiamo, parliamo di migliaia e migliaia di centinaia di migliaia di litri di petrolio greggio, quindi non solo lo sversamento ma anche la negligenza nel ripulire, nel cercare di porre una toppa a quelli che sono gli sversamenti. Ecco, neppure questo. Addirittura la Eni ha rifiutato di commentare questa notizia di Amnesty International. E è doveroso ricordare che Shell ed Eni sono, come detto precedentemente in precedenti trasmissioni di Uru, attualmente sono sotto processo a Milano per corruzione e sono da decenni le due compagnie petrolifere più attive nella regione delta del Niger, appunto Nigeria, che è il cuore estrattivo del secondo maggior produttore del continente. È diventato una delle zone, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista geologico, più devastate al mondo, segnata appunto da decenni di sversamenti, e penetra nelle acque, soprattutto nelle acque del terreno, contamina l'intero ecosistema e quindi con danni devastanti sia all'agricoltura ma anche e soprattutto un danno diretto, cioè all'impossibilità di bere o di utilizzare acqua normale, ecco, acqua non inquinata, sia per bere appunto che per tutti gli altri usi domestici. E come ci ha detto da anni, le comunità locali private delle loro naturali fonti di sostentamento chiedono che l'ambiente venga ripulito e che vengano assegnati loro dei risarcimenti. E appunto la corruzione e il processo a cui sono sottoposti a Milano per corruzione Celeni fa in modo purtroppo che tutto ciò non avvenga o avvenga in una misura molto minore rispetto a quella che toccherebbe esserci. E tra l'altro ci sono alcuni dati: Shell ha riportato 1010 fuoriuscite dal 2011 ed Eni 820 dal 2014. E di queste 1830 segnalazioni ricevute, poi probabilmente gli sversamenti sono anche ulteriori, almeno un centinaio non sono da parte di Shell Eni, sarebbero per obbligo, per contratto, obbligate a ripulire o se non altro a mettere in sicurezza le zone in cui si sono effettuati gli sversamenti. Per almeno un centinaio di questi, ma queste sono solo quelle che sono state accertate, non è stato fatto assolutamente niente. E appunto questa causa civile per questo processo di corruzione è iniziata a gennaio dell'anno scorso e è partita appunto da una serie di comunità dedette che si sono riunite insieme e che nel 2010 hanno visto il loro territorio inondato dal petrolio dopo un'esplosione di un oleodotto. E niente, questa è una notizia, riportiamo che appunto aggiorniamo in continuazione rispetto a quello che sta facendo l'Eni, che tra l'altro è una società statale, perché appunto è una partecipata statale, e la Shell. E dalle Mauritius ci spostiamo in un'isoletta che è la Réunion, che amministrativamente è sia una regione che un dipartimento d'oltremare della Francia, fa parte anch'essa delle isole Mascarene, ed è situata ad est del Madagascar e a circa 200 km a sud-ovest delle Mauritius. La Réunion, come musicalmente, a parte la Sega, che ha preso dalle Mauritius e, come si diceva prima, ha inondato un po' tutte le isole Mascarene, ha anche una musica sua particolare, che è la Maloya, che ha un forte elemento africano, che si riflette nell'uso di canti di schiavi e canti di lavoro. Proprio di questo tipo di musica vi facciamo ascoltare Buster con Ticone Mi in Sababa. La pile à bord de sous mon tambour, sonné n'a pour sonner n'a pas de la pile à bord de sous mon mamie, sonné n'a pour manger dans les nagues. La pile au randonné mon canyon, sonné n'a pour soukouiller n'a sonné. La pile à bord de nous mon paysan, sonné n'a pour fumer, laisse la fumer. Mettez la peau, si mon rouler, faut battre pour rouler maloya. Douba de bois, de sous mon mamie, de ricari, le granouillet. Sonne caillant pour faire danser le peuple cabaret. Dans la fumée, fais tourner. Mini vêtue à la scène de mon pied. N'y vérifie pas tout mon qualité. Mettre ma salée, caloupilé. Gros piment, qu'on va vapeur dans le bouffé. Lève le verre, mon carré. Mettre ma salée, caloupilé. Gros piment, qu'on va vapeur dans le bouffé. Lève le verre, mon carré. La pile à bras de sous mon tambour, sonné n'a pour sonner n'a pas de la pile à bras de sous mon mamie, sonné n'a pour manger dans le nagoté. La pile au randonné mon kayambaya, sonné n'a pour soukouiller n'a sonné. La pile à bras dans nos mauvaises heures, sonné n'a pour fumer, laisse la fumer. Mettez la peau sous mon rouleur, pour battre pour rouler maloya. Du bois de sous mon mamie, de ricari le granouillet. Ça va sonné, sonné kayam. Danse le peuple cabaré. Dans la fumée, fais tourner. Ni m'y vêtir la scène dans mon pied. Ni vécu pas tout mon qualité. Ni vécu pas tout la vérité. Mettre ma salée, caloupilé. Gros piment, qu'on va vapeur dans le bouffé. Lève le verre, mon carré. Mettre ma salée, caloupilé. Gros piment, qu'on va vapeur dans le bouffé. Lève le verre, mon carré. Dans la fumée, puis tourner. Ni m'y vêtir la scène dans mon pied. Ni vécrit pas tout mon qualité. Ni vécrit pas tout la vérité. Elle dit pas tout qualité. Le boulot de la vie, mon pays, comment il est. Chante, danse, roule, gire, tourne, gire. Mandiamo un evento che è successo il 14 marzo del 1922, e cioè viene messo agli arresti a Nairobi il leader dell'associazione dei giovani Kikuyu, Henry Tuku. Una folla di 6.000 persone manifesta davanti alla questura dove si scatena una reazione violenta. 21 ufficialmente le vittime. Harry Tuku rimarrà in prigione per 9 anni. Questo avvenimento praticamente segnò l'inizio della lotta dei keniani africani per il conseguimento dell'uhuru, la parola swahili per libertà. Quando la folla si assemblò davanti alla stazione di polizia, quel giorno del 1922, erano già ormai 20 anni dalla legge del Land Acquisition Order, in seguito al quale i coloni bianchi provenienti da Gran Bretagna, dal Canada, dall'Australia e dal Sudafrica avevano acquistato i terreni più fertili del paese, naturalmente a danno della popolazione locale. Questo avvenimento, questa lotta praticamente ha dato il seguito poi a una lunga lotta di liberazione conclusa con l'indipendenza. Sì, infatti nel 52, ecco, 30 anni dopo iniziò, o comunque a metà degli anni 50 iniziò la rivolta dei Mau Mau, appunto, che portò appunto e fu, diciamo, il punto più alto della lotta per l'indipendenza keniana dall'impero britannico, seppure una lotta proveniente proprio dal basso, neppure regolata tra virgolette dai partiti indipendentisti, e la Gran Bretagna fu costretta a dare l'indipendenza al Kenya. E ci trasferiamo un po' più a sud, un po' più a est, appunto, e sempre a proposito della musica di queste isole, vi proponiamo un pezzo comoriano delle Comore. Ricordiamo che le Comore sono legate all'Africa orientale e sotto certi aspetti anche alla Francia, perché appunto erano un possedimento francese, e anche se più recentemente hanno avuto una forte influenza malgascia, cioè dal Madagascar, e essendo in una posizione particolare diversa rispetto alle due isole di cui abbiamo ascoltato i pezzi precedenti, si sente ancora di più l'influenza, diciamo, da un lato indiana, ma nello stesso momento arabeggiante, araba, o comunque con una tradizione musicale risalente a proveniente da, diciamo, dal musulmanesimo, diciamo. E tant'è che la musica tarab di Zanzibar rimane il genere più influente nelle isole, e una versione comoriana, la versione, diciamo, comoriana popolare si chiama invece Ta'arab, si chiama Tuarab. Comunque, diciamo che è comunque un'evoluzione, o comunque un fork, ecco, diciamo, da questo punto di vista. E le principali band del Tuarab sono Sambeco e Bel Lumière, e gli strumenti omoriani appunto includono l'oud, che è uno degli strumenti tipici del Maghreb, e il violino, l'accompagnamento più frequente per il Tarab, e nonché il gabusi, che è una sorta di liuto, e l'onzenze, che è simile alla cetra, diciamo c'ha il corpo un po' diverso, però è simile anche soprattutto da un punto di vista del suono alla cetra. E se queste sono le influenze, diciamo, de magrebine o comunque indiane, non poteva mancare appunto il tamburo mzondo, che è quello più lo strumento più legato, diciamo, alla tradizione africana in senso stretto. E appunto ci sentiamo un pezzo di uno di questi gruppi più conosciuti, cioè della Belle Lumière, che si intitola Zinio. Sinunge cosa o niso kazi janda leo ridungwa zama za udu pitenge wanzi anzi du risari tu sinuari tina pasheni jambe na muzi si hauri wao Zinu ndizo yao di me mi sirenzi nyo e ucho shinda ya yo wedingo hi rizika ni di nuovo qua, siete, state ascoltando Radio Wombat, quindi siete su wombat.noblogs.org oppure potete ascoltarla, vi ricordiamo, all'1359 in AM. Per poterci ascoltare dovunque potete scaricare la nuova app per dispositivi Android e andate sull'home page di wombat.noblogs.org, a sinistra dove c'è scritto streaming sotto c'è scarica l'app, la scaricate, installate e aspettate un attimo che parta la e dopo un attimo sentite partire la trasmissione. Vi ricordo anche il profilo Twitter Radio Bombattafì, quello di Uru-RW, posta wombat@insiberia.net per parlare con noi. Sì, c'era una volta un lago, perché appunto negli ultimi 40 anni il lago Chad ha perso il 90% della sua estensione, colpa della siccità ma anche di cattive politiche dei governi degli stati che si affacciano sul lago Chad, in particolare appunto il Chad. È appunto un allarme perché il grande bacino d'acqua situato nel cuore dell'Africa centrale minaccia di scomparire per la scarsità delle precipitazioni, la forte evaporazione, le infiltrazioni del sottosuolo, ma appunto, come detto precedentemente, per le cattive politiche dei governi. Secondo gli studiosi, la colpa dell'inarrestabile processo di prosciugamento non va ricercata infatti solo nell'effetto terra e nelle terribili siccità che hanno colpito la regione Sahel negli ultimi 30 anni. Accanto al calo delle piogge ci sono anche pesanti responsabilità dovute alla cattiva gestione delle risorse idriche, e soprattutto perché i governi degli stati africani si affacciano sul lago, hanno spremuto per lungo tempo il lago Chad considerandolo una inesauribile miniera d'oro blu, ma questa inesauribile miniera appunto non lo era, e quindi appunto, come detto prima, è ridotto al 10% l'estensione del lago rispetto a quella che era la sua estensione all'inizio del Novecento. Che il lago Chad non versasse in buone condizioni di salute era una cosa risaputa da tempo, ma le rilevazioni satellitari recenti hanno fotografato una situazione veramente inquietante, più drammatica delle previsioni più pessimiste degli scienziati. Negli ultimi 40 anni il lago africano, il lago Chad, è quarto per dimensione dopo i laghi Vittoria, Tanganyika e Nyasa, e sono tutti lì nella zona della Rift Valley, quindi Kenya, Mozambico, Malawi e Tanzania. È passato da 25.000 km² di superficie del 1960 ai soli 2.500 attuali durante la stagione delle piogge, e entro qualche decennio potrebbe sparire per sempre tra le sabbie. Si tratta di una prospettiva allarmante, considerate la vita di parecchi milioni di africani è resa possibile solo grazie alle sue acque. Intorno al lago infatti vivono circa, anzi di più di 20 milioni di persone, e è utilizzato non solo per irrigazione e comunque per gli usi domestici, ma è attraversato da piroghe, imbarcazioni, pescatori, è utilizzato per i trasporti di derrate alimentari. Ci sono queste grandi zattere dello Solcano, che appunto una via di comunicazione, non solo di pesca e di sostentamento. Prodotti alimentari e soprattutto il natron, un impasto di sali naturali che è ricavato dalle alghe che vengono estratte da lì, e poi appunto questi grossi barconi li trasportano ai porti non solo vicini a dove viene estratto, dove viene preso questo natron, ma anche in paesi che si affacciano sulle rive, però lontani diciamo da dove viene preso questo natron. È una sostanza particolare utilizzata per conciare le pelle, per lavorare i tessuti, per ingrassare gli asini e i dromedari, insomma, viene utilizzata anche per come surrogato, comunque mischiato insieme al tabacco per fumare. E appunto sulle rive del lago ci sono migliaia di piccolissimi villaggi che sopravvivono grazie appunto alle risorse del lago e al commercio di cui il lago appunto costituisce una via di comunicazione. E torniamo alle isole e parliamo di Mayotte, che è una regione d'oltremare francese costituita da due isole, Grande Terre e Petite Terre, anch'essa è nell'Oceano Indiano ed è praticamente all'estremità nord del canale di Mozambico. tra la parte settentrionale del Madagascar e quella del Mozambico, praticamente. Geograficamente fa parte dell'arcipelago delle Comore, è circondato da una vasta barriera corallina. La musica praticamente è in comune le Comore, con cui culturalmente è molto affine sia come religione che appunto cultura e musica. Ci sentiamo un toro, shaman e levatorò e olà. Facciamo un altro salto geografico e andiamo alle Seychelles, che sono costituite da un arcipelago di circa 115 isole, localizzato sempre nell'Oceano Indiano come tutte le altre isole, ma a circa 1500 km a est dalla costa dell'Africa orientale. Praticamente si trova a nord-est della punta settentrionale del Madagascar ed è circondato da altri stati, tra cui Zanzibar a ovest, Mauritius e Réunion a sud e le Comore e Mayotte a sud-ovest. La musica con soli 92.000 abitanti è lo stato indipendente africano con meno popolazione. La musica delle Seychelles è una musica molto particolare perché, essendo in mezzo veramente geograficamente a tutte queste isole, hanno preso praticamente un po' di tutto e quindi praticamente ne hanno fatto una musica propria. Infatti hanno un distinto tipo di musica. hanno per esempio una musica folk che si rifà alla contradanza inglese e poi polka e mazurka, folk e pop francesi, ma anche Segada, Mauritius e Réunion, Tarab, Zouk, Soukous, tutti generi musicali rielaborati da loro. Di loro ci sentiamo le Seychelles All Star con Un Man Mouan Dan La Cour. Le soleil levé, mon dehors, mon paré. Pare, pare, la mer y espère la rivière. Mon fait et tout la ville. Traverse tout bon la vie. Mon voisin femme mendiant dormi dans ses mains. J'autre resté là l'autre côté. Zot voisin solitude, zot lisier appelou, et mon pas capable faire n'a rien. Moi aussi moi peux crier. Emmène-moi dans la cour, emmène-moi dans la cour, emmène-moi dans la cour avant il est trop tard. Emmène-moi dans la cour, emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour, côté en l'amour. Côté en la charité. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour. Souvent si pèse ou pareil un couteau. J'autre resté là l'autre côté. J'autre voisin solitude. J'autre lisier y a pelou. Mais mon pas capable faire rien. Mon si moi peut crier. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour. Emmène-moi dans la cour avant il trop tard. E appunto le Seychelles All Star, appunto provenienti dalle Seychelles, che come detto precedentemente, le Seychelles c'è tutta una serie di musiche che si incorporano, che si intrecciano, e quindi per continuare quelle sono i generi più conosciuti, ricordiamo anche il Cantolè, che è un genere popolare proveniente dalla tradizione più popolare, diciamo più antica rispetto ai suoni dell'isola delle Seychelles, ed è appunto proprio il pezzo che abbiamo sentito, un'esemplificazione, il segge, cioè una combinazione tra la sega e il reggae, ma abbiamo anche la combinazione tra un misto tra la mutoia, che è un genere a sua volta arcaico, diciamo, proprio originario dell'isola, il reggae, che è chiamata muegge, così come la montea, è una fusione di ritmi popolari nativi con la benga keniota, e quindi appunto proprio un melting pot culturale, etnico e conseguentemente anche musicale. Passiamo ora a una sorta di jump off, jump on sulle isole che sono appunto situate al largo della costa africana e tutte nell'oceano Indiano, e parliamo di Rodrigues, che è una piccola isola appartenente alla Repubblica di Mauritius, di cui costituisce una dipendenza, però come detto precedentemente un'isola un po' particolare, nel senso che è molto lontana, è situata a 560 chilometri ad est di Mauritius, e anch'essa, come quelle precedentemente dette, sono nel mezzo dell'oceano Indiano. Sono 108 chilometri quadrati, la più piccola di queste isole mascarene. E appunto da un punto di vista politico è una sorta di regione autonoma da Mauritius. Ci sentiamo un pezzo dei Cascavel, No Mario. Mon mari, je dis à mon mari, mon gros, mon mari, mon gros, votre petit goûter, donne-moi. Mon arrivée, mon madame, maman, arrivée à Dieu. Mon arrivée, mon madame, moi, quand ton petit marié. Mon mari, je dis à mon mari, mon gros, mon mari, mon gros, votre petit goûter, donne-moi. Mon arrivée, mon madame, maman, arrivée à Dieu. Mon arrivée, mon madame, moi, quand ton petit marié. La la et la. Mon arrivée, mon madame, papa, comme tu m'as dit. da epoche antichissime si raccontava dell'esistenza di una città che, al pari di Timbuktu e Agadez, visse il suo periodo di massimo splendore, confluendo all'interno delle sue mura cultura, arte e sfarzo economico. Non al caso, dalle parole di un grande viaggiatore storico del passato, Ibn Battuta, nel 1300, si legge già dell'esistenza di Jenne. Finalmente, negli anni 70, degli archeologi scoprono le rovine dell'antica Jenne del 250 avanti Cristo, situata a 3 chilometri a monte dell'attuale città, e vi sono stati rinvenuti utensili e gioielli che rivelano come questa fosse una delle città più antiche dell'Africa occidentale. I ritrovamenti più interessanti, come alcune statuette in argilla, ci indicano l'esistenza di una forma artistica, anche se primitiva, fiorita nel sud del Sahara. Col passare dei secoli poco o nulla è cambiato. Come le case in argilla e fango, dall'architettura semplice e armoniosa. L'influenza marocchina si può ancora notare dalle imposte delle finestre, che sono dipinte e decorate finemente con oggetti di metallo. Ancora oggi quello che colpisce è tutta la città, perché tutta la città è armoniosa, fatta tutta nello stesso modo, cioè tutta in argilla e fango. E il suo famoso mercato, che da cui confluisce tutti dalle città vicine, e la sua imponente moschea, che costruita ai primi del Novecento sui resti di quella precedente, risalente all'undicesimo secolo, con le sue eleganti torri è considerata il miglior esempio di architettura sudanese. In Africa occidentale non ci sono le pietre da costruzione e i grandi edifici venivano costruiti impastando il fango su dei tralicci di legno, la cui estremità praticamente sono lasciate all'esterno e servono praticamente come scale ogni anno per effettuare il restauro dopo le grandi piogge. Jenne è una città bellissima, cercate di vederla anche le foto online, così, perché è un posto veramente speciale. E ritorniamo alle Réunion, rifacciamo un salto da Rodriguez, mille chilometri circa, sempre però nell'oceano Indiano, e ci sentiamo un pezzo di Daniel Ward che si intitola Bayoun. Bel bello yon la la maman gaton le pondier, bel bello yon la la maman gaton le pondier, ma il allait parer baba t'allais la ligne au plein, ça la fin va faire Bayoun avant la ligne au plein. T'allais la ligne au plein, Bayoun avant la ligne au plein. T'allais la ligne au plein, Bayoun avant la ligne au plein. T'allais la ligne au plein, Bayoun avant la ligne au plein. T'allais la ligne au plein, Bayoun avant la ligne au plein. Ni avan zaiko, on ni avan ni avan. Ni avan zaiko, on ni avan ni avan. Mole. portal va un telefonia te. Sampon par misate va un telefonia te. Sampon par misate va un telefonia te. Questo era il nostro ultimo pezzo e vi ricordiamo che siete stati all'ascolto di Uru. Se avete perso un pezzo potete riascoltarlo in replica la domenica alle 23 o il lunedì alle 8:30. È sempre Radio Wombat, potete ascoltarci su wombat.noblogs.org, direttamente con lo streaming o con l'app. E sul 1359 1359 sulla M. Ciao a tutte e tutti.